E. Ascolta il testo. I parchi nazionali tengono conto di una coesistenza armonizzata dell'uomo con la natura. Nello stesso tempo, mirano a preservare i valori scientifici e umani. Per questo motivo, i parchi sono dei luoghi di studio e di osservazione con scopi scientifici per la difesa delle specie vegetali e animali minacciate. Educativi, perché insegnano l'amore per l'ambiente naturale. Ricreativi, per i visitatori che li frequentano. Oltre ai parchi nazionali, in Italia esistono moltissime altre aree protette sotto il controllo delle regioni e anche oasi naturali gestite dalle associazioni ambientalistiche WWF, World Wildlife Fund, e LIPU, Lega Italiana Protezione Uccelli.